Bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata numero 188 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. Questa settimana ci occuperemo di informatica, ma soprattutto di statistica. Cari ascoltatori, in questa puntata ci occuperemo di un argomento strano, piuttosto insolito. Parleremo insomma di elezioni del 2008, e parleremo di questo argomento cercando di intersecare una ricerca pubblicata qualche giorno fa su Archive, il cui primo autore è il dottor Walter Quattrociocchi del Dipartimento di Discipline Matematiche e Informatiche di Siena. Buongiorno Walter. Buongiorno. Walter, con te parleremo di un paper, appunto come abbiamo già descritto, intitolato Opinions Within Media, Power and Gossip. È un paper molto interessante, si riaffaccia alle elezioni politiche del 2008 cercando di analizzarle attraverso un lavoro prodotto dall'Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, ma a questo punto, per introdurre con le 100 parole iniziali, lascio a te la parola. Praticamente questo progetto nasce a valle di un progetto finanziato europeo che si è occupato dello studio dei sistemi reputazionali, in particolare per quanto riguarda i processi decisionali. Abbiamo scoperto durante il progetto che la reputazione era un artefatto sociale molto importante per quanto riguarda le decisioni nella scelta di un partner laddove si dovesse fare una scelta per l'acquisto di qualcosa, quindi per degli affari. Da lì abbiamo visto poi che in Italia si era verificato un certo fenomeno di bombardamento mediatico rispetto ad alcune questioni, e quindi abbiamo deciso di studiare l'impatto dei media e del gossip sulla formazione delle valutazioni sociali in processi decisionali, fondamentalmente. Insomma, come state capendo, cari ascoltatori, di cose da discutere all'interno di questa trasmissione ce ne saranno veramente tante. Cercheremo di affrontare la questione non solo dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista anche vagamente politico, perché quando si parla di società in fondo si parla di politica, che sia di destra oppure che sia di sinistra. Però a questo punto ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo musicale, alleggeriamo un pochino l'argomento, poi torniamo in studio. Nella prima parte cercheremo di capire qual è la letteratura alla quale ha attinto il gruppo del dottor Walter Quattrociocchi. Invece nella seconda parte della trasmissione cercheremo di capire quali sono i risultati a cui sono arrivati. A dopo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Aussi mal coiffé qu'écrasé, j'entretiens ma gueule négligée. J'esquive conseils et préjugés, défilés, dégueulés, télé, de fashion victime décalquée. Délirante planète, j'attends qu'on vienne me réveiller. Je veux retourner d'où je viens. C'est bon, j'ai vu ce qu'est devenu la terre dégénérée. Je veux retrouver tous les miens. Vernissage et cocktail toute la nuit, la modèle design en folie. J'suis comme un ovni dans Paris. Le ringard bouseux que je suis perd son temps pour des conneries. Urbanité, quelle maladie. Délirante planète, j'attends qu'on vienne me réveiller. Je veux retourner d'où je viens. C'est bon, j'ai vu ce qu'est devenu la terre dégénérée. Je veux retrouver tous les miens. Pas de religion, pas d'addiction, pas de drogue et de la course au pognon. Pas perdre mon temps pour des ronds. Encerclé de vicieux moutons, ligoté dans la qui est devenue la terre des générés. Je veux retrouver tous les miens. Délirante planète, j'attends qu'on vienne me réveiller. Je veux retourner d'où je viens. E bentornati in studio, cari ascoltatori. La coda del pezzo che vi state ascoltando si intitola Délirante Planète ed è di David. Intanto, cari ascoltatori, per capire veramente l'argomento della trasmissione dobbiamo fare un salto indietro al 13-14 aprile 2008. C'erano due grandi partiti che si scontravano, il Popolo della Libertà di Silvio Berlusconi e il Partito Democratico Fresco di Fabbrica di Walter Veltroni. Ma in realtà, all'interno di quelle elezioni, di quella campagna elettorale, si parlava solo di questi argomenti. Pensa al tuo futuro. Vota Forza Nuova. Con il tuo voto puoi contribuire alla lotta alla criminalità, alla chiusura delle frontiere e al rimpatrio immediato dei clandestini. Voglio che chi viene rispetti le mie regole e non imponga le sue. Con la Lega si può. Vogliamo essere più sicuri a casa nostra. Vuoi cambiare il panorama dell'Italia? Vota la destra. Patria, stupri, sicurezza, padroni in casa nostra, rumeni, furti, insomma questi erano gli argomenti forti della campagna elettorale 2008, argomenti sui quali la sinistra dovette letteralmente rincorrere la destra per cercare di accaparrarsi qualche voto. Walter, prima di cominciare ti voglio chiedere di spiegarci a quale letteratura avete fatto riferimento. Allora, la letteratura viene praticamente dal background del lavoro. Il lavoro è interdisciplinare, noi lo chiamiamo cross metodologico come approccio, dove c'è la compartecipazione di esperti di dominio nell'ambito della psicologia sociale e delle scienze cognitive e poi un supporto matematico e informatico per la modellazione dei fenomeni di studio. Walter, vorresti spiegarmi che cos'è un sistema complesso, come si analizza, ma soprattutto quali sono i suoi cardini portanti? Ma complesso non sta per complicato, complesso sta per dinamica non prevedibile. Cioè, un sistema caotico, non c'è una legge che dice quali interazioni ci sarà e che effetto avrà, però si sa che alla lunga questo sia un sistema complesso, questa interazione locale ad un certo punto avrà un effetto globale e qui si parla di emergenza. A volte l'emergenza crea un nuovo equilibrio strutturale all'interno del sistema e allora si parla di auto-organizzazione. Questo è comune alle cellule, è comune al sistema meteorologico, è comune al sistema sociale. Per esempio, un sistema emergente, come diceva il grande Francisco Varela, può essere spiegato attraverso l'uragano, no? Nel senso, l'uragano di per sé non esiste se non come particolare interazione di determinati componenti atmosferici e climatici che in un certo punto cominciano ad interagire in un determinato modo e questo determinato stato di interazioni porta all'emergenza dell'uragano. Perfetto Walter, a questo punto ci andiamo ad ascoltare il secondo pezzo musicale, poi torniamo in studio e quando torneremo in studio analizzeremo nel dettaglio i risultati della vostra ricerca. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così. Il était un petit guignol dans son palace cosy qui m'a dit très gentiment travaille plus pour gagner plus. Alors j'ai voté pour lui, j'ai fermé ma bouche aussi et j'ai gaspillé mon temps pour en gagner toujours plus. J'ai face à mon canapé le plus cher des écrans plats. J'ai garé dans mon garage, oui, la plus stylée des bagnoles. J'ai même dans la salle de bain un jacuzzi qu'on s'en sert pas. Après tout ça reste quoi? Les promesses du petit guignol. Il était un petit guignol dans son palace cosy. Il était un petit guignol qui s'appelait Sarkozy. Mes enfants je les embrasse grâce à la technologie. Par webcam de mon bureau le soir je leur dis bonne nuit. Ils sont mignons surtout dans leurs tout nouveaux habits. À la sortie de l'église, la photo sur la table de nuit. Le samedi c'est la sortie comme toujours au champ Fnac et Flunch. Quand les gamins sont ravis, ça fait plaisir à ma bonne femme. Le dimanche après-midi, oui c'est le golf après le brunch. Puis les bourses à la voisine, nous on va dîner à Paname. Il était un petit guignol dans son palace cosy. Il était un petit guignol qui s'appelait Sarkozy. Les karchers et les racailles, c'est pas vraiment mon affaire. Y'en a pas dans mon quartier, mais moi c'est surtout pour les gens qui les côtoient tous les jours que j'estime qu'il faut faire quelque chose pour les aider. Les petits guignols di David. E questo è il secondo pezzo musicale che abbiamo scelto nella 188esima puntata di Cacciafotone, all'interno della quale stiamo cercando di parlare di statistica. Ne stiamo parlando col dottor Walter Quattrociocchi del Dipartimento di Discipline Matematiche e Informatiche dell'Università di Siena. Come avrete capito, cari ascoltatori, dalla prima parte della trasmissione, all'interno di questa puntata ci stiamo occupando di un argomento che è un po' un'intersezione fra la matematica, la statistica, ma soprattutto la società. In particolar modo attraverso il paper di cui stiamo parlando, il gruppo composto da Walter Quattrociocchi, da Rosaria Conte e da Elena Lodi si è occupato di capire come alcuni argomenti abbiano deviato il voto di buona parte degli italiani. Allora Walter, la prima domanda che ti voglio fare è da quanto tempo ci state lavorando su questo argomento? Dall'incirca 2 anni e mezzo, nel senso abbiamo sviluppato questo lavoro a partire dal fine 2008, fondamentalmente siamo partiti, e diciamo che praticamente è stato pubblicato in diverse conferenze, nel senso che ci sono stati diversi risultati pubblicati a diverse conferenze a seconda dell'interesse. C'è anche da dire, da notare, insomma, lo stato della situazione attuale della ricerca, che in una conferenza ce l'avevano accettato, però siccome era troppo lontana e non ci davano i fondi per andare in conferenza, l'abbiamo dovuto ritirare. Senti, per entrare più nel dettaglio, effettivamente il vostro lavoro si riferisce alla campagna elettorale del 2008. E a questo punto vorrei che ci spiegassi in che modo avete operato e soprattutto qual è il modello, qual è l'algoritmo che avete utilizzato. L'hai un po' introdotto prima, che sarebbe il cosiddetto Bounded Confidence Model, ma di quali parametri è composto e soprattutto come opera? Diciamo che è in prassi consolidata, almeno nel settore della simulazione sociale, non inventarsi niente di nuovo se qualcosa che ti serve già funziona. E nell'ambito della dinamica delle opinioni sono stati sviluppati diversi modelli. Diciamo, noi sia per vicinanza dal punto di vista delle collaborazioni, sia per vicinanza geografica, abbiamo fatto un po' di riferimento all'algoritmo del Bounded Confidence Model, che, come ti dicevo prima, era stato quello sviluppato da Frédéric Amblard dell'Università di Tolosa. Questo algoritmo fondamentalmente è molto semplice. Dice che se io ho una determinata opinione su un tema e tu hai una determinata opinione sul tema, sullo stesso tema, se la nostra tolleranza, cioè quindi l'inclinazione ad essere influenzati dagli altri, è al di sotto di un determinato threshold, allora ci influenzeremo a vicenda facendo una media ponderata rispetto alle nostre opinioni. Quindi questo fa sì che i moderati tendono ad influenzarsi tra di loro, mentre gli estremisti no. Ad esempio, un estremista di destra non si lascerà influenzare da un estremista di sinistra semplicemente perché la distanza tra le loro opinioni è più grande di quella soglia di tolleranza che viene definita. Quindi diciamo che il maggior effetto si ha sui moderati, sulla parte centrale dell'elettorato, non sull'estrema destra o l'estrema sinistra, e lo scambiarsi opinioni, lo scambiarsi pareri fa in modo che magari alcuni possano cambiare addirittura parere su un determinato argomento. Sì, diciamo che più che altro è una caratteristica fondamentale della dinamica delle opinioni che questo algoritmo in qualche modo cattura. Walter, di domande da farti ne ho veramente tante. Parto con la prima. I dati su cui avete lavorato, da dove provengono esattamente? Allora, i dati sono stati pubblicati da Demos Unipolis, se non sbaglio, che è di Ilvo Diamante, insomma. È stata anche pubblicata su Repubblica, se non ricordo male. dove praticamente loro hanno pubblicato un report chiamato La sicurezza in Italia, significati, immagine e realtà, e praticamente è stata un'indagine demoscopica sulla situazione dei media rispetto al tema sicurezza durante il periodo della campagna elettorale. In pratica si nota, scontando il numero di servizi relativi a crimini comuni durante la campagna elettorale, un picco rispetto al numero di notizie riportate rispetto ad una situazione precedente o successiva. Aumenta esponenzialmente il numero di informazioni riguardo crimini comuni. Se uno prende i dati effettivi rilasciati dal Ministero degli Interni rispetto al numero di crimini comuni durante quel periodo, rimane stabile, anzi tende leggermente a decrescere rispetto alla soglia effettiva. In questa indagine loro hanno chiesto a un campione di persone qual era la loro percezione rispetto alla sicurezza, ovvero c'era tanta insicurezza in Italia o no. E praticamente, se si mettono a confronto i sondaggi e l'effetto mediatico, c'è uno spostamento leggero, ma la percezione sociale aumenta. Questa dimostrazione del fatto che quello che dicono i media è fondamentale per quanto riguarda la percezione sociale di determinati topic. Questo viene comunque sia, è semplicemente una verifica empirica di quello che già è stato teorizzato circa 40 anni fa sulla teoria dell'agenda setting, che dice che c'è una correlazione molto forte tra la frequenza delle informazioni che i media riportano e quanto queste sono considerate importanti dall'opinione pubblica. Nel vostro studio, da quello che vedo, avete analizzato l'impatto sia dei media old, quindi la televisione e radio, sia dei media new, cioè come internet e quindi i giornali online. In che misura internet ha spostato, influenzato la percezione di alcuni argomenti negli italiani e quindi di conseguenza ha spostato anche il voto? Rispetto a questo abbastanza poco, nel senso che almeno da quello che risulta adesso, il problema del digital divide in Italy è molto sentito e c'è alla fine una percentuale molto bassa di persone che accede ad internet per documentarsi al di là di quello che dicono i giornali e i media stessi, nel senso che chi si informa su internet comunque si informa sempre o su Repubblica o sul Corriere, che non portano informazioni diverse da quelle che vengono riportate poi nella carta stampata. Quindi diciamo che l'impatto è stato abbastanza basso per quanto riguarda quella formazione di quel contesto di rappresentazione del mondo che poi mi permetta di esprimere una decisione, una preferenza in un contesto elettorale. Quindi mi stai dicendo che più media è come se si fossero comportati come un media unico? Sì, se non sfociamo nel discorso politico, sì, nel senso che abbiamo ritornando sempre ai grafici precedenti, se vediamo come picco sia del network pubblico che del network privato, quel famoso picco rispetto alle informazioni riguardo alla sicurezza in quel periodo. Non sappiamo se è per un controllo effettivo esercitato diretto o indiretto da qualcuno anche sul media pubblico, per imitazione, nel senso che visto che raccoglieva molto audience, allora anche loro hanno adottato quella politica. Però sta di fatto che in quel periodo l'informazione, almeno mediatica, si è concentrata sul topic della sicurezza, in particolare su quello di crimini comuni, cioè il furto, lo stupro e tutto quello che in qualche modo tocca quella soglia di sicurezza personale che in qualche modo porta l'individuo ad avere un maggior desiderio di sicurezza. Questo sempre stando al report. Senti, quindi se tu dovessi classificare i media non solamente per importanza ma soprattutto per impatto mediatico, li metteresti tutti sullo stesso piano o metteresti una scala in cui uno ha più incidenza e l'altro un pochino meno? Metterei una scala di valori, però c'è il punto, nel senso che diventa significativo l'impatto del media se messo in comparazione con la quantità di persone che ne fruiscono. E il comportamento sembra abbastanza abitudinario, nel senso che le soglie di audience tendono a rimanere sempre le stesse o a variare di poco nell'arco del tempo. Quindi per cui la massa critica comunque si rimane abbastanza, la massa critica significativa raggiunta da questi media rimane abbastanza alta. Senti, da quanto vedo nel vostro paper, l'individuo, o come lo chiamate voi, la gente, ha due opzioni. Una ce l'ha sul welfare e l'altra ce l'ha sulla security. Entrando più nel dettaglio, cercando di capire come è veramente strutturato questo algoritmo, chi e che cosa modifica questa percezione e soprattutto a chi la modifica? I nostri agenti fondamentalmente sono immersi in una rete sociale, quindi in qualche modo una rete che assomiglia ad una rete sociale vera, che ha determinate caratteristiche, quello di l'effetto small world, ha una distribuzione in varianza di scala, cose abbastanza ormai assodate dall'ambito della letteratura. Abbiamo dato ad ogni individuo in questa rete due preferenze, uno rispetto alla sicurezza e uno rispetto al welfare. Gli agenti, praticamente a passo simulativo 1, guardano i telegiornali e ricevono informazioni rispetto a welfare e security. A passo 2 si scambiano informazioni con i loro vicini, quindi fanno una specie di gossip e in qualche modo applichiamo, dopo che c'è stato lo scambio di informazioni, il Bounded Confidence Model, che è quello che ti dicevo rispetto alla tolleranza. Allora, abbiamo fatto una prima sperimentazione come controllo di riferimento rispetto alla distribuzione delle opinioni in assenza di media e vediamo che praticamente si attestano i valori intorno allo 0.5, laddove la distribuzione delle opinioni è 0.1. Quindi il gossip da solo tende a mantenere abbastanza ben distribuite le opinioni rispetto ai singoli individui. Poi facciamo pervenire i media. I grafici in particolare mostrano all'aumentare della popolazione raggiunta dai media l'effetto che si ha sulla percezione, quindi sul desiderio di sicurezza e sul desiderio di welfare, a diversi livelli di tolleranza, quindi quanto è predisposto un individuo ad accettare o meno l'informazione che riceve. A tolleranza bassa c'è comunque sia uno spostamento dell'opinione, ma non così elevata. A tolleranza media, quindi che più o meno simula un contesto abbastanza verosimile, si ha uno spostamento significativo verso i valori mediatici, quindi sale la sicurezza, decresce il desiderio di welfare. A tolleranza molto alta, quindi grossa predisposizione a cambiare idea, che può essere anche intesa come l'ignoranza rispetto ad un determinato tema, c'è proprio l'assunzione definitiva dei valori indotti dai media, quindi l'effetto media al gossiping tra gli individui della rete sociale ad alti livelli di incertezza porta alla polarizzazione delle opinioni rispetto a determinato tema che viene ritenuto importante dal media. Quindi Walter, lo spostamento delle opinioni dipende espressamente dall'humus che trova? Esattamente, dell'humus che trova, ovviamente sì, perché l'individuo di suo è più complicato di un numero. Ovviamente qui noi abbiamo fatto un approccio che in qualche modo fosse abbastanza verosimile, anche se ricade sempre un minimo nel riduzionismo scientifico, quindi abbiamo applicato questo Bounded Confidence Model che è apprezzato e accettato. Nelle prossime fasi proporremo un modello delle opinioni più sviluppato, che al momento abbiamo sottoposto a conferenze e stiamo aspettando i risultati, che dovrebbero arrivare credo per fine mese, per un modello più completo delle opinioni che tenga conto di tante dimensioni, cioè quanto è ritenuto importante quel tema dalla società, quanto ci credono gli altri e l'effetto del dibattito e dell'argomentazione, quindi dovrebbe essere molto più verosimile. Senti, se lo dovessi spiegare alla casalinga di Voghera in poche parole il risultato di questo lavoro, come lo tradurresti? Che il fatto di fidarsi esclusivamente di un'unica fonte informativa è molto pericoloso, perché con il crescere della complessità delle informazioni, delle questioni, tipo abbiamo esempio questi giorni per quanto riguarda la questione sud del Mediterraneo, con quell'incendio che sta divampando lì sopra, i punti di vista sono tanti, avere una conoscenza effettiva su quel contesto è molto difficile, richiede molto molto interesse e pazienza. E bisogna stare attenti a non prendere decisioni laddove non si è completamente informati rispetto ad una determinata questione, perché ci potrebbe essere qualcuno in un mondo ipotetico che non esiste, perché non è così, potrebbe sfruttare il canale mediatico per propri fini o per indurre, come fa il marketing, delle esigenze che magari non sono effettive e reali, e quindi inficiare sullo sviluppo sociale. Quindi questo potrebbe causare anomalie vere e proprie in ambito di contesti sociali, soprattutto nell'ambito delle democrazie occidentali. Walter, io continuo con il dettaglio, se non ti dispiace. In un punto del vostro lavoro voi trattate due categorie, i media e gli esperti. Ecco, i media abbiamo capito chi sono, ma gli esperti esattamente chi sono? Abbiamo pensato che fosse, siccome c'è in genere questo tipo di approccio di indagine scientifica si basa fondamentalmente sull'analisi, sulla what if analysis, no? Che cosa succede cambiando alcuni parametri? Abbiamo inserito nel sistema un altro tipo di agente, che è l'agente in qualche modo informato, quello indipendente, quello che in qualche modo non ascolta quello che dicono i media, o perlomeno sa che quello che dicono i media potrebbe essere in qualche modo falsato, per cui ricorre ad altre fonti di informazione, quel cosiddetto internet, o altre fonti di informazione, o già è un esperto della questione, quindi non si lascia influenzare dal problema sicurezza. Per esempio, chi ha redatto in qualche modo i dati del ministero sa perfettamente che i crimini durante quel periodo erano in leggera decrescita rispetto al solito, quindi non avrebbe preso in considerazione l'informazione mediatica. Simulando questo, abbiamo creato degli agenti con una soglia di tolleranza diversa rispetto agli altri, quindi molto più bassa, che riportassero invece un valore speculare rispetto a quello riportato dai media, ovvero è più importante il welfare rispetto alla sicurezza in questo istante. Quindi c'è nel sistema un bombardamento mediatico che è intorno al 70%, che dice che la sicurezza è più importante del welfare. E mano a mano andiamo ad aumentare il numero di esperti all'interno della rete sociale che interviene nella comunicazione peer-to-peer, quindi quella che simula il gossip. E abbiamo che all'aumentare dei wise agent si ha un ritorno alla qualità dell'informazione che in qualche modo bilancia fino a già un 30% di esperti, bilancia il broadcasting mediatico, quindi il gossip è molto più potente del broadcasting mediatico, anche a tolleranza molto bassa, e mi sposta in qualche modo i valori più vicini a valori di verità, ovvero quelli che noi abbiamo definito come verità nel sistema, quindi i valori di riferimento, al crescere dell'informazione indipendente. Questa dimostrazione che il gossip informato in piccole percentuali inibisce e distrugge completamente il flooding mediatico. Senti, ultima domanda prima di mandare l'ultimo pezzo musicale e poi farti la domanda zainetto. Nei ringraziamenti voi ringraziate Geronimo Stilton, perché? Ah, no, questa è soltanto una, diciamo che è una prassi, cioè una mia prassi che è condivisa anche dal gruppo, che praticamente è quella di mettere un po' di brio, insomma, alla fine. Tanto gli ringraziamenti in genere non vengono mai letti, quindi per cui ne approfittiamo per infilarci dentro personaggi strani che è difficile ringraziare, del tipo o si usa Geronimo Stilton oppure utilizziamo l'Ipno Rospo, il personaggio di Futurama fondamentalmente, che serve a dare un po' di anticonformismo alla questione. Musica e poi di nuovo in studio. Grande Giove. E siamo nell'ultima parte di Cacciafotone, siamo sempre in collegamento col dottor Walter Quattrociocchi del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche dell'Università di Siena, e quindi l'ultima domanda, Walter, è questa, la classica domanda zainetto. Quale delle tante cose conserveresti di questa ricerca e metteresti nel tuo zainetto da ricercatore per portartela dietro nelle prossime ricerche? Ma fondamentalmente l'interdisciplinarietà della ricerca, perché l'approccio cross-metodologico, cioè collaborare e cooperare in diversi esperti di diversi settori sullo stesso tema, dà la possibilità e di imparare cose nuove e altre prospettive, e dall'altra di poter affrontare argomenti molto molto complessi in una maniera diversa rispetto a quello che invece si potrebbe avere se ci fosse una maggiore concentrazione rispetto a un determinato campo. Nella fattispecie il mio settore, che è quello degli algoritmi, fondamentalmente, quindi informatica, la parte matematica dell'informatica tende ad essere molto settoriale, molto chiuso rispetto alle sue definizioni e alla sua ontologia di fondo, mentre un'apertura anche scientifica, secondo me, facilita e fluidifica di molto il lavoro scientifico e l'interesse che poi ne consegue. Walter, a questo punto si conclude la 188esima puntata di Caccia Fotone. Ti ringrazio per la pazienza con cui hai risposto alle nostre domande. L'appuntamento è, come al solito, alla settimana prossima, e l'augurio è il classico di buona scienza a tutti. Ciao! E con chi stai parlando? Dici a me?